Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Regina Reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello così grande e così bello? Se 10.000 passi farai, in buona salute resterai e il cuore della tua regina conquisterai. Buongiorno da Nicoletta. Anche se non dovete conquistare il cuore di una regina, direi di considerare la proposta. Forza che si va, passo dopo passo e un attimo. Che cos'è? Un contapassi, te lo metti alla cintura e cammini. Cosa? Il dottore non ha detto che devi fare esercizio fisico. Il regalo che voglio è che tu cammini un po' di più. Cheryl, io sono una persona molto attiva. Sono in pianissima forma. Oh, tesoro mio, la tua forma è quella di una palla. Andiamo. Ti chiedo un piccolo sacrificio, 10.000 passi al giorno fino al giorno della festa. 10.000 passi, sembra un obiettivo impossibile, invece molti di noi sono a un passo da raggiungerlo e qui a un passo da me per aiutarci a farlo, il dottor Franco Confalonieri, medico e responsabile del centro DDS di Settimo Milanese. Buongiorno dottor Confalonieri. Buongiorno, ben ritrovati tutti. In effetti sembrano tanti 10.000 passi, ma già nella nostra quotidianità, andando a comprare il pane, recandoci in ufficio, salendo le scale, qualche passetto lo facciamo, quindi siamo già, molti di noi sono quasi a un passo per raggiungerlo. No, direi che sono un traguardo raggiungibile anche dai sedentari o anche dalle persone che hanno una vita particolarmente impegnativa e poco tempo a disposizione per l'esercizio fisico. Diciamo che la regola dei 10.000 passi è nata soprattutto per gli anziani, per mantenere un certo tono muscolare e una buona funzionalità cardiovascolare, e quindi se sono facilmente proponibili ad un anziano, figuriamoci ad una persona ancora giovane nel pieno dell'energia. Direi che va incrementato circa del 100%, cioè va raddoppiata quella che è la quantità di passi che facciamo in una normale vita quotidiana, e si arriva a circa 10.000 passi. L'unica regola è la regolarità e i vantaggi sono tanti, ne parliamo anche insieme al professor Giovanni Battista Agus, ordinario di chirurgia vascolare all'Università di Milano e presidente d'onore del Collegio Italiano di Flebologia. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Allora, passo dopo passo si conquista la salute o si ritorna in salute, perché numerose ricerche dimostrano che il cammino è proprio lo strumento più facile, più a portata di piedi di tutti per mantenersi bene. Professore. Meno costoso nella sanità italiana, oltretutto. Sì, senza dubbio il camminare è prevenzione da un lato e dall'altro cura, terapia di moltissime malattie. Noi praticamente abbiamo una circolazione che, come parte anatomica e fisiologica del nostro corpo, pretende il movimento, nel senso che il cuore e i vasi sanguigni arteriosi ossigenano il nostro corpo, e dall'altra parte il ritorno a partire da un altro cuore, quello collocato nel piede, il piede appunto ha un cuore plantare, spinge sangue, linfa, liquidi in generale, che devono risalire, andare in su, e devono essere favoriti da movimenti, la contrazione appunto dei muscoli della gamba stessa. Quindi sicuramente noi abbiamo miglioramenti, ma vorrei dire che non solo li abbiamo sulle malattie della circolazione dirette, ma anche su una malattia indiretta, qual è l'ipertensione arteriosa, viene controllata, ridotta, qual è il diabete. Ricerche recentissime e approvate anche dalle linee guida delle società diabetologiche dicono che il camminare, fare trekking per il diabetico, vuol dire migliorargli l'assetto glicometabolico e finanche usare meno insulina di quanto necessario. Quindi, ricapitolando, passo dopo passo, quali sono i vantaggi? Si tonificano i muscoli, si bruciano calorie, migliora la circolazione, si riducono ipertensione e colesterolo, funziona anche, come diceva il professor Agus, come terapia, a sostegno della terapia per i diabetici. Dottor Confalonieri, un po' però ci si stanca. Ma avete detto praticamente tutto. Comunque aggiungo qualcosa di molto pratico. Innanzitutto, se ci poniamo questo obiettivo, Davvero non possiamo prescindere dall'utilizzo del contapassi. Ecco, evitiamo di fare i calcoli, ho fatto tot chilometri, ho fatto tot tempo. Il tempo può essere una buona variabile, però lo strumento più preciso è sicuramente il contapassi e non la distanza percorsa. Il secondo discorso importante è quello della regolarità, cui ho già accennato, cioè è fondamentale che almeno 4-5 giorni la settimana si raggiungano i 10.000 passi per avere obiettivamente un riscontro positivo e tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato. Terzo, va fatta prevenzione rispetto a quelle che possono essere le problematiche indotte comunque da un'aumentata attività fisica e quindi da un sovraccarico sia pur minimale. Sappiamo che, abbiamo detto tante volte, il cammino e l'attività, diciamo, sull'aria che sovraccarica meno, però se non siamo abituati è fondamentale magari suddividere il nostro impegno in diversi momenti della giornata. Banalizziamo la cosa, molto meglio impostare tre momenti o tre passeggiate di 8-10 minuti piuttosto che un'unica passeggiata di mezz'ora che può diventare impegnativa anche per una persona relativamente poco allenata. E ricordiamoci anche di scegliere con attenzione le scarpe, perché comunque questo può variare completamente sia l'efficacia di questo cuore che sta nell'arto inferiore di cui parlava, questo è il cuore dei piedi, il del professor piede Agus, che è un'immagine molto bella, e sia per prevenire alcuni delle problematiche che possiamo avere anche a camminare e sulle quali poi magari torniamo, che sono più legate a problematiche invece strutturali e anatomiche. 800 24 00 24. La stanchezza nelle gambe mi fece capire che camminavo da varie ore in una qualche direzione, ma senza un itinerario ben definito. O forse sì, ne avevo uno, casuale, che sebbene non mi portasse da nessuna parte, mi allontanava sempre più dai miei pensieri. Luis Sepúlveda. Cammina, cammina, chilometro dopo chilometro, le nostre gambe si stancano. Dottor Confalonieri, ci vuole gradualità, questo è un concetto che lei ripete spesso, ma a volte avvertiamo il dolore. Ma anche lì bisogna capire esattamente quando lo avvertiamo, se prima, durante, dopo e a distanza di quanto. Ma il dolore è legato a un cammino, anche ai 30-40 minuti di cammino. Non è mai un dolore legato a problematiche di tipo metabolico, quali ad esempio l'accumulo di acido lattico. Cioè camminando non si accumula acido lattico perché è uno sforzo di tipo aerobico, quindi che facciamo utilizzando esclusivamente meccanismi energetici che prescindono dall'accumulo di acido lattico. Può comparire il dolore, compare soprattutto se non siamo abituati a camminare quando cominciamo con questo tipo di esercizio, e sono dolori legati essenzialmente ai microtraumi muscolari. Sì. Il muscolo lavora di più o in modo leggermente diverso rispetto a come abituato. Il muscolo è una struttura in continua evoluzione, quindi abbiamo delle microlesioni, delle microdistruzioni, e poi il muscolo si ristruttura e si riforma più efficace, più forte e più definito di prima. Quindi il dolore è qualcosa di fisiologico, deve ovviamente sparire nell'arco di una giornata e soprattutto deve ridursi gradualmente man mano che andiamo avanti ad allenarci. Professor Agus, se le gambe sono stanche anche se non hanno camminato, non hanno fatto questi famosi 10.000 passi? Dunque, se non hanno fatto i 10.000 passi, che sembra un titolo di una canzone, direi che bisogna fare esercizio fisico a quella pompa che abbiamo chiamato cuore, cioè un nome addirittura di un autore francese, la suola plantare di Léger, e glielo possiamo far fare anche da fermi. Anche quando ormai la maggior parte delle persone sta davanti a un computer, come stiamo noi, sì, magari in questo momento, e tutti stanno, le nostre gambe dovrebbero fare quell'esercizio di dorsiflessione, parola angiologica per eccellenza, ma anche ortopedica, che indica il movimento del piede dal lontano verso il collo del piede, l'attacco alla gamba, sì, che poi altro non è che il punto attacco che facciamo nel nostro passo del cammino. Questo lo possiamo fare stando fermi, anche magari utilizzando delle pedane plantari. Io delle lo sto pedane facendo, è una bellezza, guarda. Cioè dei foot mover, si dicono in lingua anglosassone, che fanno muovere appunto i nostri piedi. La pedana sotto la scrivania è fondamentale. Per la persona anziana che non sta davanti al PC e sta in poltrona, altrettanto farà questi esercizi col suo puff davanti, dove allungherà le gambe, terrà le gambe sollevate, ma questo movimento è essenziale. punta, tacco, tacco, punta. Stefano, buongiorno, da Verona, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io per scommessa ho fatto un controllo dei miei contapassi che faccio nella mia attività lavorativa. Io faccio il capo reparto in un'azienda alimentare, quindi svolgo un lavoro strettamente di controllo e di gestione. Sì. E ho contato quel contapassi e faccio più o meno nelle mie 8-9 ore lavorative tra i 13 e i 15 chilometri, però sono intervallati, quindi 40 passi, poi mi fermo, sto fermo anche qualche minuto, 50 passi, poi mi rifermo, 100 passi, poi mi rifermo. Normalmente sempre abbastanza veloci, quindi non passi lenti. Però io arrivo la sera, al termine della mia attività lavorativa che faccio la doccia, e ho le gambe che non le sento più. Non le sente più, immagino. Immagino, perché lei tiene molto impegnate. Ma Stefano, dottor Confalonieri, professor August si chiedeva, ma sono magari piccoli impegni? Fa tanti chilometri ma pochi forse passi. Forse parla di 13-15 chilometri, ma è più probabile siano 13-15 mila passi. 15 chilometri sono proprio tanti. Cioè si fa fatica a farli in una giornata lavorativa. Comunque in ogni caso è chiaro che è un carico tutto sommato abbastanza elevato, ma soprattutto è la modalità con cui viene applicato questo carico, cioè continui tratti brevi con pause probabilmente in cui si mantiene la posizione eretta, quindi non c'è mai l'abitudine al gesto, la continuità del gesto, è una fatica che si ripete in modo disordinato e questo indubbiamente provoca un effetto positivo, perché è chiaro che c'è attività muscolare, c'è lavoro cardiovascolare e via dicendo, però provoca un sovraccarico, un affaticamento di cui dobbiamo tenere conto. Lui cosa fa la sera? Le persone che si stancano per una serie di ragioni, professor Agus, ma nel caso di Stefano, perché camminano tanto, magari interrompere, penso anche a chi svolge un lavoro in piedi, come le commesse, oppure le assistenti alla poltrona, le insegnanti. Alla sera funziona sempre il classico metodo di tenere le gambe un pochino in alto per riossigenarle, per riposarle, per defaticarle, o lei suggerisce qualche cosa di più mirato? Senza dubbio, questo che noi in medicina chiamiamo posturologia, cioè il modo di un declivoterapia, sollevare le gambe, sono termini medici ma che indicano un concetto di riposare le gambe, richiedono un intervento dello specialista e del medico di famiglia che spieghi a camminare come camminare, lo accennava appunto Confalonieri molto bene, perché molti credono di fare molti passi, credono di camminare ma non nel modo giusto, e allora bisogna che si consumino dei minuti del nostro rapporto di medici col paziente o col pubblico, perché non sempre uno è paziente ma è uno che vuole prevenire, e insegnargli che c'è bisogno di un allenamento che non si può giocare in poco tempo, in poco spazio, ma chiede un allungamento. Faccio l'esempio degli anglosassoni, più degli americani, che sostengono che uno faccia il giro del block. Che cos'è il block? È l'isolato, e l'isolato lo deve fare con una certa velocità non esagerata e continuativa. Poi, sempre stile americano, le gambe sollevate, che magari è poco educato se ci sono altre persone con noi, però sono i due concetti: movimento alternato al riposo con gli arti ben sollevati, non stesi troppo però, perché un ginocchio tirato, soprattutto in una persona di una certa età, potrebbe stirare il nervo che sta dietro il ginocchio e dare dei fastidiosi disturbi nevritici. Per 4 mesi spariscono, non si vedono più. Ai primi raggi del sole di marzo, come si fossero passate parola o avessero ricevuto un ordine di mobilitazione, spuntano a decine per le strade, in abiti leggeri e tacchi alti. Allora ricomincia la vita. Finalmente possiamo riscoprire i loro corpi e differenziare 2 categorie. Le appariscenti e il tipo bambola. Una bella gamba è da ammirare, ma non mi dispiacciono le caviglie robuste. Anzi, posso dire che mi attirano, perché promettono qualcosa di più armonioso, risalendo lungo le gambe. Rappresentano una sorta di mistero insondabile. Le gambe delle donne sono dei compassi che misurano il globo terrestre in tutti i sensi, donandogli il suo equilibrio e la sua armonia. L'avete riconosciuto dall'uomo che amava le donne. Noi prendiamo spunto per guardare le nostre gambe e proviamo a costruire per loro un programma ad hoc. Ditemi come sono, cosa fanno e come le sentite. Ma forse queste indicazioni vanno più puntualizzate. Ci facciamo aiutare dai nostri esperti. All'invito di raccontarci all'800 24 0024 come sono, dottor Confalonieri. Ma intendiamo innanzitutto vedere qual è la forma delle nostre gambe, se sono gambe diritte, se sono gambe modello cowboy, quindi col ginocchio varo, le gambe che fanno una sorta di O o comunque di cerchio, oppure se sono le cosiddette gambe a X, quindi col ginocchio valgo. E parlando di cammino, non mi fermerei sulle gambe, ma valuterei anche quelle che possono essere le problematiche fondamentali a livello del piede. E quindi se è presente un vero piede piatto, si tende spesso a considerare il piede piatto anche quello che è soltanto un problema funzionale, se viceversa esiste un piede cavo, se infine una patologia che si sta diffondendo sempre di più nelle nuove generazioni è per esempio presente un alluce valgo. Adesso con le scarpe che quindi, si utilizzano da giovane, c'è questa problematica di questa deviazione del dito pollice del piede, diciamo così. La forma delle vostre gambe, qualche dettaglio sul piede, ma anche immagino il tono muscolare. Esatto, stavo se finendo avete... E infine, se c'è un tono muscolare ben distribuito o se c'è quella che è la problematica che si ha più spesso a livello di muscolatura delle gambe, cioè una maggiore muscolatura sulla parte anteriore delle gambe, a livello del quadricipite femorale in particolare, e una muscolatura inadeguata a livello della parte posteriore, cioè del bicipite femorale o degli adduttori, muscoli che stanno all'interno della coscia. Professor Agus, ma lei al come sono potrebbe aggiungere alcuni dettagli, perché dalla sua esperienza guarda le gambe in modo differente rispetto a un medico sportivo. Certo, e se Nicoletta me lo permette, entrerei a gamba tesa riprendendo l'evocazione letteraria proprio da, perché già ne abbiamo fatto due, da un personaggio famosissimo della letteratura, conosciuto da tutti, Angelica del Gattopardo, oppure Claudia Cardinale nel film celeberrimo tratto dal Gattopardo, e cito: soffriva di vene varicose e le sue gambe la sostenevano male e veniva su appoggiata al braccio del proprio servitore. Cito queste righe del romanzo celebre proprio ad indicare come nessuno in realtà si salvi da un qualche problema circolatorio, angiologico. E tornando al linguaggio scientifico, l'epidemiologia ci dà i numeri esatti di questi problemi. Quindi ciascuno di noi dovrebbe guardarle anche le nostre gambe, vedere se ci sono varici capillari, e non solo per bellezza, gambe belle o meno belle, ma proprio perché questo può essere il primo segno di una malattia che c'è già o che sta arrivando. Il camminare è senz'altro il primo rimedio, poi vedremo semmai se farmaci nuovi, tecnologie nuove ci possono aiutare, ma guardare le gambe è la prima cosa che l'angiologo suggerisce alle donne e anche agli uomini. Cosa fanno le vostre gambe? Le muovete o le tenete sotto il tavolo? Professor Agus, abbiamo già detto che il movimento fa bene perché si attiva questo cuore che abbiamo nel piede. Sicuramente il movimento piace anche al dottor Confalonieri, quindi voi potete raccontarci se siete sedentari in sostanza o se invece praticate attività sportiva. Quali in particolare? Mi stanno arrivando molti dei vostri messaggi, alcuni mi dicono: ma io corro sul tapirulan, io invece che camminare vado in bicicletta, la stessa cosa. Lo chiederemo ai nostri esperti, ma voi raccontateci anche, oltre a come sono le vostre gambe e a cosa fanno, come le sentite. Professor Agus, queste tante volte avvertiamo una sensazione, vuoi di stanchezza, vuoi di gonfiore, sono sensazioni talvolta un po' sfumate, ma che sono importanti, che vanno sicuramente prese in considerazione anche nel momento in cui decidiamo di affidarci ai vostri consigli e quindi fare questi 10.000 passi. Certamente, tra l'altro stiamo entrando nella stagione clou. Dopo un fortissimo freddo, un inverno freddissimo, adesso arriverà il primo caldo e si scompenserà la circolazione delle nostre gambe con senso di peso, senso di calore, prurito più caratteristico dell'uomo che della donna. Ecco, tutti questi disturbi sono, direi, stagionali, anche se poi ricorrono tutto l'anno, ed è questo il momento in cui più dovremmo prendere provvedimenti. Bene, per questo oggi siamo qua per parlarne, ma il dottor Confalonieri, alla parola, come le sentite invece? Immagino che abbia qualche idea relativa ai crampi, a quella formicoli. Beh, diciamo che le due problematiche, al di là del dolore muscolare di cui già abbiamo parlato, precedentemente, sensazioni tipicamente associate all'attività fisica o comunque alla medicina dello sport possono essere i crampi, e il cramp è una delle patologie tutt'oggi meno conosciute, pur essendo così diffusa. Ci sono ancora teorie relativamente diverse rispetto all'insorgenza del crampo, comunque legato a uno squilibrio di tipo metabolico fondamentalmente, quindi prevenibile attraverso il riscaldamento, l'allungamento muscolare, una corretta idratazione, una corretta alimentazione. E il formicolio, che invece il più delle volte è un problema di origine nervosa e quindi il più delle volte parte addirittura da problematiche a livello della colonna e quindi della radice dei nervi che poi vanno a lavorare sulla muscolatura della gamba. Essere e benessere. Gambe incrociate, schiena eretta, mani sulle ginocchia. Questa è la posizione yoga più famosa, quella del fiore di loto. In linea con noi abbiamo Tite Togni, insegnante di yoga certificata a Iyengar. Ciao Tite, bentornata. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Senti, ci sono altre asana nello yoga che lavorando sulle gambe permettono però di ottenere benefici in altre parti del corpo. Allora io vorrei proprio con te utilizzare le gambe come strumento di benessere. Noi le gambe le utilizziamo perché stiamo così insistendo sull'importanza dei famosi 10.000 passi al giorno, cioè di muoverle. Ma lo yoga si concentra molto sulle gambe e attraverso proprio le gambe alcune posizioni riesce a procurare benefici a livello di tutto l'organismo, penso non solo alla spina dorsale ma anche a livello proprio del respiro. Tu dicevi lo yoga e poi meditazione, no? In azione. Tite. Sì, esatto, lo yoga come il camminare, come la corsa, possono essere definiti meditazione in azione. A dire il vero, lo yoga è un allenamento che ti fa sentire come, partendo dal basso, cioè dal contatto dei piedi con la terra, vai a dare una sensazione che può essere positiva o negativa, di allineamento o meno, che scorre su dalle gambe, attraverso le gambe, attraverso la spina dorsale e arriva poi anche alla mente. Ma questo è l'ultimo dei punti in cui si arriva. Si parte dai piedi. Vuoi suggerirci una posizione che noi possiamo magari praticare ritornando a casa, certo, in alcuni momenti? È la posizione più semplice e in fondo si dice nello yoga tutto è Tadasana, che io sia testa in giù, che io sia con il busto di traverso, cerco sempre di recuperare quella mia sensazione di allineamento che mi dà Tadasana. Tad significa montagna, asana ormai lo sappiamo perché è la parolina che c'è sempre, significa postura. E se voi ci pensate, montagna significa due cose sempre insieme, come spesso succede nelle posizioni, sia radicamento al suolo che poi attraverso il radicamento la possibilità di svettare verso l'alto. Quindi innanzitutto la posizione è molto semplice, soprattutto se presa all'inizio contro un muro, quindi piedi uniti, alluci uniti, talloni uniti. E sentivo prima parlare di alluci valgo, che è molto diffuso. Se devo scegliere se unire gli alluci o i talloni all'inizio, scelgo di unire gli alluci, separo leggermente i talloni, ma i talloni al muro, e semplicemente mi cerco di spalmarmi al muro per sentire il diritto in me stesso, nella postura. E scoprirò tante cose, scoprirò che devo appoggiare tutta la pianta del piede, di entrambi i piedi, dal tallone al metatarso, scoprirò che le dita dei piedi sono solo un completamento dell'equilibrio, scoprirò che dovrò spingere moltissimo le cosce indietro e quindi far lavorare tutti i muscoli delle gambe. E tutto questo perché? Perché solo in questo modo è efficace la spinta dei miei piedi contro una cosa che grava su di noi e che possiamo solo scegliere di sfruttare, la forza di gravità. Quindi spingendo adeguatamente la forza i piedi per terra, ricevo una forza uguale e contraria che va in su, che mi porta ad allungare anche la colonna vertebrale e mi porta a essere finalmente diritto contro un muro. Sentirò le spalle aderire al muro, la testa al muro E questo lo mantengo per tutti i respiri, la posologia, tu mi chiedevi, la posologia sì. Sono i respiri calmi e tranquilli che posso mantenere e vi assicuro che dopo un po', soprattutto le prime volte, non è così semplice. Professor Agus, tra l'altro il professor Agus è un runner, vero? Quindi ho parlato di te, Titi, al professore, perché ho raccontato anche il lavoro che tu stai facendo proprio come utilizzando lo yoga e applicandolo alla corsa. Professore, la posizione che ci consiglia Tite Tony è una posizione all'apparenza è semplice, ma poi quando ce l'ha descritta mette in moto tutta una serie di leve, tensioni, adeguamenti, riequilibri che non sembrano assolutamente naturali o perlomeno tendiamo a dimenticarle. Sono in totale sintonia con la signora Togni. La parola postura è proprio parte importante del mio insegnamento universitario. Non è ancora così popolare nel pubblico questo concetto della buona postura e quindi è giusto che se ne parli come si sta facendo ora. E quando parlavo di insegnamento e di counseling da parte dei medici verso i propri pazienti, esiste proprio l'atteggiamento non solo di insegnare a camminare con le gambe, cosa che a cui tutti penserebbero, ma anche col corpo. Il bilanciamento degli arti superiori dalla spalla, e che il braccio deve andare avanti e indietro nel cammino o se si corre sollevato, sono tutte posizioni che vanno apprese, sono assolutamente fondamentali per tutto il benessere della persona. Si è parlato di colonna vertebrale, quindi da un punto di vista diremmo ortopedico, ma anche da un punto di vista del richiamo della circolazione verso quel respiro che fa la funzione della vis a fronte e che sono le casse toraciche che si aprono e si richiudono col diaframma, aspirando il sangue verso un ritorno venoso e quindi una miglior ossigenazione attraverso i polmoni. Vi invito a raccontarci le vostre gambe in base alle tre indicazioni che vi abbiamo suggerito in apertura di programma. Come sono, cosa fanno, come le sentite? Abbiamo Carla che ci chiama da Macerata e poi Leonardo da Bologna. Carla, buongiorno. Buongiorno. 42 anni, peso 63 kg, ho perso all'età di 20 anni circa 40 kg. Allora, le mie gambe hanno una bella caviglia, perlomeno me lo dicono anche. Questo bella... è sottile o un po' robustina? No, è sottile. Sottile, come il fuoco. Sottile, però viene sulla coscia. Avendo perso chilo, avendo fatto altro movimento, eccetera, eccetera, non riesco a guadagnare sul quadricipite e all'interno coscia. La sentiamo male, Carla, però da quanto ho capito ha caviglia sottile, ha perso molti chili quando era ragazza. Ha la caviglia sottile, e questo è una perché slancia la gamba, che abbiamo sentito l'estratto prima del film, dice anche la caviglia un po' solida, però insomma è più bella quella noi sottile. Amiamo di più quella sottile. Quella sottile, e però non riesce a potenziare la massa muscolare ed è un problema un po' comune, dottor Confalonieri, perché sbaglia attività fisica? No, diciamo che la nostra ascoltatrice ha evidenziato due problemi, quello di non riuscire a potenziare la massa muscolare, quello di non riuscire a perdere il tessuto grasso in relativo eccesso a livello della parte superiore della gamba, in particolare dell'interno coscia, e purtroppo sono problemi difficilmente risolvibili. O meglio, è chiaro che il cammino è un'attività fondamentale per il tono muscolare, oltre che per tutti gli altri vantaggi di cui abbiamo parlato, ma non è un'attività che di per sé induce ipertrofia muscolare, cioè aumento, aumento dei volumi muscolari. Per dirla in modo semplice. Magari li scolpisce, ma non li fa diventare più grandi, perché sappiamo che per fare massa dobbiamo lavorare con sovraccarichi importanti, cosa che evidentemente non appartiene al fatto di camminare, il che può essere anche un bene. E viceversa, il problema del grasso è un problema antico su cui siamo tornati tante volte. Probabilmente la nostra ascoltatrice ha fatto i miracoli perché ha perso 40 kg, ma pesandone 62, non sappiamo l'altezza, c'è ancora un leggero sovrappeso. E noi sappiamo che poi la distribuzione del grasso risponde a un codice genetico ben determinato, ci sono le persone e tipicamente a mela si concentra, per esempio, nelle donne a livello della coscia e soprattutto dell'interno coscia. Quindi tutto sommato si deve accettare, se dal punto di vista della salute tutto va bene, con la caviglia sottile e la coscia un po' più importante. Che va bene anche così. Tite, prima di salutarci, volevo sapere se ci dai un esercizio che possiamo praticare, possiamo provare per prendere un po' consapevolezza, no? Non solamente delle nostre gambe, ma un po' dell'equilibrio, e quindi fare un po' pratica. Sì, la pratica dell'equilibrio, cioè tutto un settore stupendo di posizioni di equilibrio. La prima direi è quella dell'albero, la consiglio sempre perché è la più semplice e è proprio un distillato di meditazione in azione. Quella dell'albero lo suggerisce la posizione stessa su in equilibrio su un piede, in piedi su un piede, con l'altro piede appoggiato alla coscia, ginocchio piegato e le mani semplicemente adagiate sui fianchi. Sì. Stare e respirare in maniera calma e tranquilla. Si scopre innanzitutto che non si può mantenere neanche un istante se non si lascia fluire il respiro calmo e tranquillo. Il che è spesso paradossale, perché invece spesso si pensa di tenere la posizione trattenendo il respiro. E quindi questo si scopre tutta l'importanza del respiro nel mantenimento della posizione. E poi si scoprono tanti squilibri che si possono avere tra il lato destro e il sinistro del corpo. E la consapevolezza è tutto, perché è il primo passaggio, è il primo inevitabile e indispensabile passaggio prima di cambiare qualcosa. E quindi facciamo un po', prendiamo un po' confidenza con questo respiro che ci accompagna sempre in tutta la vita, naturalmente, ma ci accompagna, segna anche un po' il passo del nostro tipo di allenamento. Grazie Tita per essere stata con noi, buonissima giornata. Grazie anche a voi, namaste. Leonardo da Bologna, buongiorno. Buongiorno, la sento. Buongiorno. Eccomi, buongiorno a lei. Se vuole raccontarci. Allora, il mio problema sono i crampi notturni. Durante il sonno, io dormo abitualmente, innanzitutto ho compiuto 60 anni fra un mese e mezzo, peso circa 70-71 kg, altezza 1,76, non sono un atleta, faccio un po' di sport stagionali, sci d'inverno e sì, nuoto d'estate. Qualche camminata in montagna. Senta Leonardo, ma le sue gambe come sono? Come sono? Magrissime. Molto magre. E come le sono? Non ho dei polpacci da ciclista. Non, ecco, diciamo, professor Agus, gambe magrissime, ma non che so, di notte si lamentano. Da vascolare direi che qui non mi pare che ci troviamo di fronte a un disturbo crampiforme secondario a patologia vascolare, che poi non viene nemmeno descritta. No, io penso che sia un crampi di origine neurogena, cioè che siano le terminazioni nervose del polpaccio a dargli dei fastidi. Potrebbe essere anche la sindrome delle gambe senza riposo, come viene chiamata dagli anglosassoni, in cui vengono in gioco appunto delle contrazioni su controllo nervoso, e la cui terapia è per lo più usare dei farmaci tipo gli ansiolitici, tanto per intenderci, o dei farmaci addirittura che usano i bambini epilettici per rilassare il muscolo preventivamente, cioè delle gocce prese prima di andare a dormire per non farsi venire fuori il crampo. Ma non direi che è una patologia vascolare, nel caso almeno presentato. Essere e benessere. Io non parto. Cosa? Non parte? E seguire davanti non voglio, perché io voglio stare dietro, che mi fanno male le gambe, io le devo stenni. E togliamo il sedile. Come il sedile? Ma cosa che vuole? Che ci vuole? Ma che stai a scherzare? Leghiamo il sedile e femmola contenta. Mannaggia, mo basta, sempre io con questo problema di ste gambe, io non ce la faccio più. E allunga le gambe, ripiega le gambe, ristende le gambe, ritira le gambe, ricopri le gambe. Non te potevi mettere prima ste calze elastiche? Proprio mo, in mezzo alla strada. Mamma, le gambe mi dolono, non gliela faccio più, mi si gonfiano. Allora vabbè, dimmelo, stanno ste calze. C'è già la borsa nera, c'è pure il bolo d'albo. Da bianco, rosso e verdone, intanto voglio salutare subito il dottor Fabio Firenzuoli, direttore del Centro di Medicina Integrativa Careggio, Università di Firenze. Buongiorno, dottore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie. Si poteva fare qualcosa per evitare poi di togliere il sedile? Certamente, nel senso di le gambe, giustamente come è sempre stato detto e anche stamattina ripetuto, vanno mantenute in benessere perché poi al momento siano efficienti, e quindi bisogna pensare a mantenere bene le articolazioni, i legamenti, le ossa, i muscoli, e questo anche da un punto di vista direi nutrizionale, non soltanto. Bisogna pensare che i muscoli delle nostre gambe, perché funzionino, hanno bisogno non solo di ossigeno, ma anche di ferro, anche di proteine, e quindi c'è tutto un lavoro di prevenzione che è giusto fare. Dottor Firenzuoli, lei come può venirci in aiuto? Quali suggerimenti ci può dare per il benessere delle nostre gambe? Abbiamo analizzato nel corso della trasmissione alcuni sintomi, a volte spesso sfumati, che spesso non riusciamo neanche a descrivere con le parole precise al nostro medico, che sono il senso di pesantezza, il gonfiore. E poi lei lo sa, dottor Firenzuoli, ormai la primavera sta bussando, sta arrivando, e quindi ci sarà il problema estetico della cellulite, perché la prova costume è meglio iniziare a prepararsi con adeguato anticipo. Sì, è vero, questo è vero. Diciamo che l'aspetto estetico chiaramente non ha ripercussioni sull'aspetto funzionale, però sono importanti tutte e due. Sì, partendo certo. Dall'ultimo, partendo dal fatto che le gambe vanno mantenute in benessere perché funzionino, ovviamente bisogna pensare a tutte, soprattutto le donne, che hanno piccoli o grandi difetti di circolazione, di ritorno venoso, stasi linfatica, piccoli capillari, che diciamo tutta una serie di fattori che spesso associati alla sedentarietà, sì, penso appunto alla donna che guida, ecco, non possono far altro che amplificare la stanchezza, la pesantezza e il gonfiore. Da questo punto di vista, non soltanto estratti di piante da usare per fare bagni, per fare massaggi, e queste vanno benissimo, addirittura anche estratti di alghe che riescono bene a tonificare il tessuto connettivo, ma per esempio estratti di mirtillo, piuttosto che di centella asiatica, piuttosto che di ippocastano, servono moltissimo, alcuni nell'alimentazione, sì, altri anche nella terapia, proprio per ridurre al minimo la stasi venosa e quindi mantenere attiva la circolazione, e questo è fondamentale. Quindi da ora, mirtillo, da ora verso l'estate. Mirtillo, sì, centella asiatica, ippocastano, anche alghe, questi sono un po' gli amici del benessere delle nostre gambe. Professor Agus. E non posso che essere d'accordo. Io provengo da venerdì scorso da Bologna, dove avevo organizzato io stesso una riunione di expertise con i massimi specialisti italiani sulle malattie venose, e prima ancora di parlare di laser, di scleroterapia, cioè di cure, si è scelto proprio volutamente di parlare di prevenzione, quella prevenzione primordiale, come a me piace chiamare, che è il cammino, soggetto di questa trasmissione, e poi l'uso di sostanze vegetali che appunto intervengano sulla salute delle nostre gambe. Beh, allargherei il campo a, anche senza fare assolutamente nomi commerciali, ha una categoria di farmaci che sono attivi sulla circolazione delle nostre gambe, che sono i bioflavonoidi in senso più lato, che non dare solamente qualche nome eccetera, così come è emerso anche come dato che gioca un ruolo non indifferente l'infiammazione anche sulla circolazione, l'uso dei glucosaminoglicani. Sono tutte evidenze che sono state dibattute proprio venerdì scorso a Bologna, ecco. Dottor Firenzuoli, pesantezza, senso di gonfiore, come possono aiutarci le erbe? È già stato fondamentalmente accennato a questo. Ripeto, alcune si trovano già in forma di alimenti, per esempio arricchire le nostre colazioni con frutta di bosco, dai mirtilli ai lamponi, alle fragole, all'uva, ecco, questo è già un primo step di partenza. Dopodiché, se non c'è bisogno di ricorrere a medicinali vegetali, allora alcune piante le troviamo all'interno anche di integratori. E l'importante però è assumere da ora finché ci sia tutto il periodo caldo. Altrimenti è possibile perfezionare, come dire, con ricette. Pronto? Sì, siamo qua. Non mi sto perdendo una parola. Ok, è possibile intervenire, dicevo, ecco, con ricette personalizzate, preparando, diciamo, il medicinale ad hoc per la singola, il singolo paziente, a seconda anche del fatto che stia assumendo o meno altri farmaci. Non ci dimentichiamo che molte piante medicinali, benché efficaci, benché sicure, possono in realtà interagire con i farmaci, per cui quando si debba prendere anche per periodi abbastanza lunghi estratti di vite piuttosto che di centella, piuttosto che di ippocastano, ecco, e si stiano assumendo già altri farmaci, necessariamente bisogna parlarne con l'angiologo, con il medico di medicina medicina generale che sa se e quando e come integrare. Dottor Firenzuoli, grazie per essere stato con noi. Buonissima grazie giornata. A grazie. A voi, allora, abbiamo gli ultimi minuti della trasmissione per fare un po' il riepilogo. Gambe in gamba, se professor Agus, dottor Confalonieri, facciamo una sorta di, io dico decalogo, ma non necessariamente deve essere un decalogo. Qualche insomma, qualche punto. Ma per me va benissimo mettere al numero uno, al posto numero uno, il camminare, che è il tema odierno. Assolutamente, non perché ne abbiamo parlato oggi, ma perché oggettivamente è così. Al numero due metterei il peso forma, anche se oggi non se ne poteva parlare, saremmo andati fuori tema, ma è un altro cardine vascolare. Numero tre, e se ne è accennato proprio, ne ha appunto accennato Confalonieri, le scarpe sono un argomento importante, scarpe comode eventualmente con plantare, e le calze, quindi l'abbigliamento, le calze elastiche citate dal film, le calze elastiche sono di contenzione, misura assolutamente importante se personalizzata, non si può costringere una povera donna con una calza brutta e troppo stretta, quindi la calza è importante. Se abbiamo parlato di camminare e di corsa, aggiungerei anche così en passant che esistono delle calze apposite per questa attività, cosiddette compression zone, detto all'anglosassone, che hanno la capacità di supportare i muscoli gemelli del nostro polpaccio. A questo punto arrivo a 5 dicendo che quando ci vogliono, al punto numero 4, i farmaci giusti ci vogliono, e al numero 5 quando ci vogliono anche interventi chirurgici giusti. Ma da chirurgo vascolare rassicuro che non sempre ci vuole la chirurgia, non sempre bisogna operare. Grazie professor Agus. Dottor Confalonieri, 30 secondi per dire. 30 secondi per dire, abbiamo parlato del cammino, due consigli. Il primo, anche qui crescete gradualmente, magari arrivate a 10.000 passi in 2-3 settimane. Il secondo, non dimentichiamoci l'alternanza di diverse attività che è un nostro cavallo di battaglia, quindi magari ogni tanto una nuotata, ogni tanto un po' di bicicletta, servono comunque per le gambe, differenziano gli stimoli. Ma sempre insieme alle 11 con Nicoletta ed Essere Benessere. A domani.